per Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non era facile da parte di Sheju e palla alta sopra la traversa. Recupera la posizione il difensore arrivato in estate da Lille per oltre 6 milioni di euro. È stato nel 2007-2008 a Lille compagno di squadra di Lick Steiner. E se la palla ti rimbalza davanti, colpirla bene di controbalzo è veramente difficile. Let it snow, let it snow, let it snow. Bell'anticipo di Chiellini, palla nella zona di Tevez, la difesa del pallone dell'argentino, combina con Lick Steiner, anticipato Tevez, Semikaya che sta facendo. Ciao a tutti, buongiorno, siete convocati sotto la neve di Istanbul. 800 24 00 24, numero verde, Franco Piantini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, e grazie a potentissime e alturocate intercessioni siamo riusciti a far combaciare perfettamente Galatasaray Juventus, o quel che ne resta, con tutti i convocati di oggi. La partita è iniziata alle 14, o meglio, è iniziata alle 14, il resto della partita dal 31esimo in poi. Siamo al 43esimo, 0-0 punteggio. Il campo è un porcile assoluto, in condizioni peggiori rispetto a quelle che abbiamo visto ieri sera quando era coperto di neve. È un, soprattutto sulle fasce, è un pantano mai visto. Per quel che può contare, la Juventus sta provando ad arare questo acquitrino con il pallone con maggiore efficacia rispetto al Galatasaray. Ricordiamo, serve un pari quantomeno per passare il turno. A proposito, nevica ancora su Istanbul, la partita è iniziata da una decina di minuti, qualcosa di più, e le condizioni del prato stanno rapidamente deteriorandosi. Quindi io la trovo una parvenza di partita piuttosto divertente. Ma Diego Confalonieri, grande juventino, grande schermitore, nostro olimpionico, la sta guardando credo con altri occhi. Ciao ragazzi, la sto guardando su Sky Go in macchina, sto andando a un matrimonio, spero che la interrompano perché devo vederla in chiesa, se no è un disastro. Non la vedrai, non la interrompono, quindi preparati, fai il testimone. In chiesa, sì, mia moglie è già arrabbiatissima, ma devo guardarla, oggi è proprio fondamentale. Ci anche se posso dirvi, poteva giocare ieri sera tranquillamente, secondo me. Ho visto poi te molto in condizioni molto peggiori di oggi. Anch'io, no, ma anche secondo me potevano giocarla tranquillamente. È chiaro, sarebbe finita molto tardi, però insomma, valeva la pena di tentarci ieri sera, anche perché non mi sembrava un disastro, almeno sempre visto dalla televisione, quel campo. Non credo che la partita verrà interrotta oggi, quindi andrai con l'iPad dentro la chiesa, però quel matrimonio si poteva anche rinviare, o no? Sì, ma purtroppo in chiesa non nevica. Tu pensa, ieri sera quando hanno detto che giocavano oggi alle 15, cosa posso aver detto e pensato io? Questo non è possibile, no, domani alle 14 no, non va bene. Sta finendo il primo tempo, sta finendo il primo tempo, Diego, come vedi? Perché io sono sul telefono con voi e poi ho l'iPad per Sky Go, quindi sto parlando, guidando e vedendo la partita, tutti insieme. Ammazza, no, allora, però bene, no, però sono fiducioso. Ieri sera ho visto la prima parte della partita, io ho giocato bene, ha controllato, insomma, loro non mi sembrano niente di che. Poi è chiaro che è un campaccio. L'anno scorso quando abbiamo giocato fuori casa l'ultima con Shakhtar era difficile lo stesso, la Juve ha vinto, quindi credo che insomma ci siano buone probabilità che la Juve passi il turno. Sì, ma anche perché mi sembra che insomma, per quanto non mi sembra sia gioco del calcio, stia andando meglio in questo strano sport rispetto al Galatasaray. Sì, al momento. Infatti, assolutamente sì, sono d'accordo. Anche se devo essere sincero, tutta questa pressione per il passaggio del turno poteva essere evitata giocando meglio le partite fuori casa con il Copenaghen, non facendo due pari in casa all'ultimo minuto col Galatasaray. Quindi, sicuro. Insomma, credo che debba essere anche per i giocatori un po' di esperienza, debba servire. Perché fine primo tempo, Diego. Bene, posso riposare per un quarto d'ora. Ok. Quando loro adesso può seguire il navigatore. Senti Diego, una cosa sola, ma dimmi se tutto. La Juventus secondo me passa, allora fai gli scongiuri che vuoi. Non mi vedi. No, infatti non ti vede nessuno. Per radio si può fare quello che si vuole, con le mani si può fare quello che si vuole, però se non dovesse passare sarebbe, lo dicevamo ieri anche con Tacchinardi, un fallimento quello della Juventus, perché è la partita tra bivio, tra il risultato minimo indispensabile in Champions League e il fallimento. Sono super d'accordo, la Juve deve passare questo turno e deve anche andare avanti in Champions. In campionato abbiamo rimesso le cose a posto perché è la squadra più forte secondo me, e quindi credo che vinca la campionata di quest'anno, però la Champions per noi deve essere l'obiettivo primario e dobbiamo saltare l'ostacolo, dobbiamo andare oltre alle nostre possibilità, andare almeno avanti e migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Poi è chiaro che se si vuole vincere bisogna spendere qualche soldino. Sì, certamente. Diego, buon viaggio, buon matrimonio, un bacio alla sposa, mi raccomando, non fare grossi numeri durante la cerimonia, no. Non farti espellere dal prete. No, speriamo, dai, c'è il rischio, ma speriamo di no. E divertiti, ciao Diego, grazie, ciao, un abbraccio. Grazie Carlo, buona giornata. Diego Confalniere, olimpionico di scherma e uno che della Juventus non può fare a meno. Voi, 800-24-0024, fine primo tempo, 0-0, campo in condizioni disastrose in questo quarto d'ora di gioco di questo strano sport, meglio la Juventus del Galatasaray. Valgono anche le scommesse in diretta, i pronostici in diretta, in corso d'opera. Io vi aspetto, siete sempre convocati. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Yes, let it snow. Today too, on Istanbul. Sta nevicando ancora, ma si gioca, almeno si è giocato fino all'intervallo che è stato fischiato 5 minuti fa. Si è giocato su un campo e si sta provando a giocare su un campo molto più simile a un porcile, a una risaia, a uno di quei prati che conosce bene il nostro amico Emiliano Mondonico nelle sue campagne durante l'inverno. Però si gioca e per quel che si vede in questo strano sport, meglio la Juventus del Galatasaray in questo spezzone di partita. Un paio di buone giocate di Llorente a innescare Tevez. Galatasaray non è riuscito a costruire nulla, ma proprio nulla in questi 16 minuti che restavano da giocare nel primo tempo. 800-24-0024, i miei pronostici di ieri restano validi, se vi interessa. Cioè, passa la Juventus vincendo 1-0 nel secondo tempo con una palla di neve tirata da qualcuno. Il Milan stasera pareggia, il Napoli pure con gol. Spero di sbagliarmi ovviamente sul Napoli. C'è Antonio che scrive: vincono i turchi 2-1, non vedo come possano segnare due gol visto che non riesco neanche a portare la palla oltre la metà campo. Poi c'è chi scrive: la Juve perde in queste condizioni come a Perugia, richiamando episodi storici. Per inciso, Pardo è là vestito come un eschimese che sta commentando la partita per Mediaset, quindi oggi non può essere qui, ma ci sarà domani. C'è invece un grande amico come Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti voi. Che come sapete era preparatore atletico del Milan il giorno della nebbia. Esatto. Allora, io volevo chiederti: Belgrado, novembre 88, è storia, è leggenda quasi quella partita. Guarda, sono alcuni, io dico sempre, ed è verità, che mi ricordo molto di più certe sconfitte di tante vittorie, sì. Ma quei minuti, i minuti, le giornate di Belgrado sono qualcosa di indelebile, come se fossero scolpiti nella pietra, guarda, perché chiaramente fu come un incubo finito bene, ecco, cioè, perché in un giorno successe di tutto. Da gol non convalidati, espulsioni, per dire partite già quasi perse, dove sì. Poi arrivò fuori la nebbia, sì. Poi c'era, ad esempio, avevamo dei giocatori il giorno della ripetizione della partita come Gullit da provare la mattina, cioè successero tante cose in poco tempo che fu proprio come infilarsi in un tunnel senza vedere la luce, e poi improvvisamente il secondo giorno si accesero tutte le luci. Sì, ti capisco perfettamente, Vincenzo. Cosa successe tra il fischio che interrompeva la gara 1 e l'inizio della gara 2? Beh, e lì eravamo proprio vicino, cioè tutto l'ambiente aveva capito che eravamo vicino al baratro, proprio, sai quando arrivi, casomai tu vai nella nebbia, ti fermi in un posto, quando la nebbia va via vedi che... E quindi non ci fu sicuramente nessun bisogno di caricare la partita del giorno seguente, in cui, ricordiamolo, ci mancavano dei giocatori che erano stati squalificati, in cui dovemmo mettere dentro sicuramente dei giocatori meno abituati a vincere, però quello che scatta in quei momenti lì è qualcosa che, ad esempio, io vengo dall'atletica leggera, mi ricordo atleti che improvvisamente tirano fuori dei record inaspettati, sì. Per dire, proprio la prestazione che è fatta di muscoli e di cervello, che ha bisogno di certe chimiche, di certe alchimie per saltare fuori, e che non salta fuori tante volte, ecco. Ma Arrigo Sacchi o tu o qualcuno dello staff disse qualcosa ai giocatori? Cioè, ci fu un intervento in qualche modo psicologico sui Guarda, giocatori? Era sicuramente gli interventi di Arrigo, me li ricordo, erano più a rassicurare che non a spingere, che non a soffiare sul fuoco, perché l'ambiente era già tirato per i capelli, sapevamo che, per dire, più di così non si poteva fare. Poi erano talmente tante i problemi da superare, dalla situazione di Gullit, alle squalifiche da cambiare, insomma, per cui si pensava sicuramente a quello che c'era da fare. Io mi ricordo il giorno dopo, la sveglia, proprio eravamo come dei soldatini, un gruppo a provare Gullit, l'altro gruppo dal massaggiatore, un altro gruppo immediatamente ad aiutare il recupero, eccetera. Tanto che, guarda, a distanza di anni, pensa che era presente a Belgrado per motivi di lavoro un arbitro internazionale italiano, Luciano Luci, che poi ho ritrovato in Ucraina, perché insieme a Collina si occupano degli arbitri ucraini. E lui mi disse: Pinco, quel giorno lì mi sembrava di vedere una squadra, tra virgolette, in guerra. Sì. Io vi osservavo, ha detto, ed eravate in guerra. Cioè, per dire, un clima che si addice alla Juventus. Io credo che conto di quello che avevi dentro, ma gli altri lo vedevano. Sì, io credo che questa situazione possa essere, insomma, possa andar bene alla Juventus. Una situazione molto simile. Molto bene. Perché, sai, oggi avevi la paura anche psicologica, no? di come parti, e tutto sommato sei partito, ma la Juve è tosta, la Juve, per dire, è l'unica squadra che ti dà quell'impressione lì, casomai perde, casomai fatica, però l'impressione di esserci dal punto di vista del temperamento e, attenzione, anche della preparazione fisica, è un'impressione che la Juve dà perlomeno quasi sempre. Mi chiedono di domandarti, invece, c'è un ascoltatore via SMS che mi chiede di domandarti se la preparazione di Benitez è sbagliata, perché per come prepara appunto le sue squadre, cioè trovi qualcosa, guarda, di sbagliato nella preparazione di Benitez? Io dico che ci sono stati tanti allenatori stranieri che sono venuti in Italia e non hanno saputo interpretare il nostro paese, le nostre culture dal punto di vista calcistico, il nostro calcio, che è fatto di tensioni, che è fatto di tattica, che è fatto di tante cose. Il nostro calcio, lo ripetiamo sempre, sicuramente non è più bello, però è uno dei più difficili. E lui, Benitez, se aveva avuto problemi ad interpretare Milano, sì, io credo che ne possa avere molti di più ad interpretare Napoli. Sì. Proprio anche Milano, da quello che si sentiva, spesso diceva: ma noi in Spagna, ma noi in Inghilterra, e quindi insomma quella è una difficoltà che io, che sono stato parecchio all'estero, che ti può dare molto fastidio, ecco. Io ho trovato... Un'altra cosa sicuramente, sì, è venire e cambiare, non con degli allenamenti non giusti, ma cambiare le abitudini anche di tanti giocatori che erano abituati sicuramente con Mazzarri a lavorare in un altro modo, ma a lavorare abbastanza. Sì. Io vedo un po', secondo me, lo stesso problema, perché per dire, lo stesso problema ce l'ha un po' anche la Roma, guarda cosa ti dico io, perché è tornata a vincere, però le ultime partite ha perso quello smalto, d'accordo, ci mancava Totti, però il nostro è un campionato lungo dove tu, se hai già se hai già delle scalfiture adesso, alla fine diventano delle ferite. E non so, adesso si parla tanto, sai, di questo modo di gestire tranquillo, un po' meno allenamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna vedere a gioco lungo. Si paga nel nostro campionato. Però per gli allenatori stranieri venire in Italia, interpretare il nostro calcio, non è facile. No, è una sfida. qualche volta ci sono riusciti allenatori come Lidl, come Eriksson, molto molto molto intelligenti. Beh, aggiungiamoci Mourinho, Vince. E per l'amor del cielo, anche Mourinho, ma per dire, ecco, parliamo proprio di top, No, no, è chiaro, non in tanti, anzi in pochissimi ce l'hanno fatta, questo è vero. Ti ringrazio Vincenzo, ti abbraccio. Un abbraccio a voi, buona trasmissione. Grazie Vincenzo Pincolini, ci fermiamo, vi aspetto, qui. 800240024, tra poco inizia secondo tempo di Galatasaray Juventus, ve la racconteremo, mamma mia che campo. Se avete l'occasione, poi magari più tardi, magari non sull'iPad di Confanoniere, andate a vedere le immagini di quella fascia centrale, è soltanto fango. Agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono. Nemmeno, cioè, perché lì l'unico pensiero che ti viene è di non perderla, no? E quindi la butti via, perché non puoi fare altro. Calcio di punizione per il Galatasaray affidato alla stessa di Riera. Qui rivediamo il contrasto tra Vidal e Selçuk. Allora, 50° esatto di Galatasaray Juventus, ripresa iniziata dunque da 5 minuti, nessun cambio rispetto a ieri, nemmeno rispetto a quello che restava del primo tempo. Juventus che attacca da destra verso sinistra, è particolare non irrilevante, perché mi sembra che la parte migliore del campo sia la fascia sinistra di attacco della Juventus. La destra è totalmente impraticabile ed è proprio su questa fascia che la Juventus sta insistendo. Comunque, ripeto, resta 0-0, ma la sensazione è quella di una Juventus che sia in controllo di questa partita. Prima abbiamo visto un tiro piuttosto morbido di Pogba che non ha creato grandi problemi a Muslera, ma fino adesso onestamente Galatasaray non ha fatto nulla. C'è una differenza sostanziale. Mentre state dormendo, ci siete? 800240024? Siete vivi? Lo state facendo? Massimo De Vercelli? Presente, ci sono. Presente, c'è. Allora, una differenza fondamentale rispetto a ieri è l'ambiente, perché era molto temuto l'ambiente di questo stadio, ambiente meraviglioso peraltro, come anche ieri sera abbiamo visto, 55.000 assatanati, oggi sono 15.000, gli altri o lavorano o hanno preso raffreddore o hanno deciso di non andare alla partita. Comunque sì, alla Juve non fa paura questo di certo. Cioè questo cosa? Questo clima infernale che così viene acclamato, viene definito, di sicuro non fa paura. No, io credo, ma no, della Juve, ma così non come fa paura per il Milan, per il Napoli, eccetera eccetera, per giocatori di questo livello. Sì, sono d'accordo, ma l'ha detto anche ieri Tacchinardi, no? Ma io ci credo, insomma, per giocatori di questo livello. E poi Buffon, non ho mai visto il pubblico far gol, ma è giusto, per giocatori di questo livello, anzi, uno stadio particolarmente caldo, anche se contrario, può essere fonte di maggiore carica. Però questo fattore ambientale è stato azzerato dalla bufera. Oggi è uno stadio normale con 15.000 anime dentro e un campo impraticabile in sostanza su cui si gioca pallone. La sta guardando la partita? No, purtroppo io sono in Liguria, ma comunque immagino il terreno perché amici, colleghi mi stanno aggiornando, diciamo, sì, minuto dopo minuto, ma sarà la classica gara da 0-0 dove negli ultimi 5 minuti il gran mancio spedirà tutti scriteriatamente all'attacco, sì. Quindi molto presumibilmente 0-1 da lei acclamato potrà anche accadere, anche se secondo me 0-0 finale, X lei dice, ma sì, può essere, X va bene, no? X va, sì, bene, perché vuol dire 100%. Perché Juventus, sì, che passa il turno. Sa cosa mi è sembrata strana? La gestione di tutta questa vicenda, perché insomma abbiamo visto tante volte in inverno, ad altre latitudini, ovviamente non sul Bosforo, partite giocate sotto la neve in condizioni ben peggiori dalla Russia alla Germania, all'Inghilterra stessa. Allora ieri, vabbè, all'inizio nevischiava, condizioni normali, poi è vero, qualcosa di una nevicata, no, ma non clima, no, ma non so dovuto a cosa, queste neve che sembrava polistirolo e così via, però tutto sommato, boh, forse si poteva pure tentare di chiuderla quella partita. E passata una notte, il campo te lo aspetti spalato e in condizioni migliori di quanto sto vedendo, perché davvero è qualcosa di molto peggiore del peggior Bentegodi, del peggior Campaccio che abbiamo visto in Italia, e in Italia ne abbiamo visti tanti di Campacci, però insomma io la mia impressione è che si poteva fare qualcosa di più ieri sera, o che comunque qualcosa di strano è successo, si è detto che non funzionavano le serpentine sotto il campo, poi l'ha detto all'impianto, ha detto non fatemi arrabbiare, funziona tutto. Non è vero, sono tutta propaganda contraria. Non so se sia propaganda contraria, fatto sta che il campo rispetto all'inizio della partita di ieri sera è in condizioni indecorose. Diego? Ciao Carlo. Ciao, che facciamo? Allora, io sono juventino, quindi ti lascio immaginare, spero bene nella 0-0, 54-14. Lo so, speriamo. Ascolta, io volevo sbandare un attimo di argomento parlando della nazionale. Sì. E ti spiego anche perché, siccome io sono bresciano e sono molto amico anche dell'allenatore della nazionale, che sì, come tu sai è di Orzinuovi. E mi sono già arrabbiato con lui di persona, volevo arrabbiarmi anche con te. Con me? Io? Ti spiego, è una tua opinione che è molto importante. Io non capisco perché lui continui a dire che deve convocare i giocatori che in campionato hanno le migliori prestazioni, quando questa, secondo me, e i fatti lo dimostrano, è effettivamente una grossa bugia. E poi mi arrabbio doppiamente. Cioè, prima di arrabbiarci tutti quanti insieme appassionatamente, mi spieghi, sì, perché è una grossa bugia? È una grossa bugia perché, allora, vabbè, Totti adesso al momento non è in forma, però sappiamo tutti chi è Totti. Io piuttosto di convocare persone come Osvaldo, Gilardino, ma Ballotelli stesso, che io mi arrabbio ancora di più quando mi dicono che Ballotelli rappresenterà l'Italia ai mondiali. Beh, perché? Secondo me come giocatore è molto valido, sì, però ragazzi, la testa questo qua non ce l'ha. Ho capito, ma Diego, non trascinarmi sul terreno di Istanbul, metaforicamente. Allora, io ho detto mille volte che valuto i giocatori per quello che fanno in campo. Il Balotelli che ho visto nelle ultime due partite, soprattutto a Livorno, è un giocatore che si è ricordato di avere il talento più scintillante del calcio italiano. Questo è il mio pensiero, cioè uno così ai mondiali ci deve andare. Poi Prandelli ha giustamente e intelligentemente aperto la porta a tutti, perfino a Cassano. Questo sulle risultanze del campionato, però sarebbe inutile adesso per un amichevole, adesso per un raduno, convocare Totti, Cassano, che sono giocatori, sai già quello che ti possono dare, è inutile chiamarli adesso, poi a fine campionato allora prendi questa decisione che va presa con grande coraggio e con grande attenzione, perché non sono giocatori normali, sono dei giocatori che ti portano dietro un circo molto ampio, no? Una pressione, attenzione, perché Galatasaray vicino al gol con un destro di Drogba, raso terra, e Buffon in questo caso risponde. Ha tirato quasi a colpo sicuro perché ha tentato di prendere in contropiede Buffon, ha avuto una reazione Buffon straordinaria. Eh sì, questa è una grande occasione per il Galatasaray ed è la prima, attenzione perché il Galatasaray continua a premere con Snyder in questo momento, e c'è un fallo fischiato a favore del giocatore olandese ex Inter a 25 metri dalla porta della Juventus, 57-22, 0-0. Però ho detto non avrebbe senso convocare adesso Totti o Cassano. Prandelli è lì, li tiene d'occhio, sa bene che cosa possono dare e che cosa possono anche togliere alla nazionale in termini di serenità, in termini di pressione mediatica, eccetera eccetera. Poi vediamo, farà i suoi conti prima del mondiale, se un giocatore di questo tipo può essere utile e funzionale ad una squadra che è quella che sta costruendo, perché Prandelli sta costruendo, ha costruito e sta proseguendo nella costruzione di una squadra di calcio, non di una rappresentativa. Traffico, poi vedo già il mio amico Enrico Curro da Repubblica in linea. C'è anche Selciuk. Come sono posizionati, però direi Burak Yılmaz. Ieri ha tirato Selçuk, no? L'unica, sì, punizione nella prima mezz'ora. Maniera sistemata anche due nelle Galatasaray a fare da schermo. Fischia Proenza. Parte Burak Yılmaz. Alto il tiro di Burak Yılmaz, che avete sentito in diretta, 59-57, 0-0 tra Galatasaray, che adesso sta provando a vincere davvero questa partita. Il tiro di Drogba, questa doppia punizione, c'è stata una munizione a Tevez, secondo me ingiustificata, perché su un tiro di Drogba si è protetto la faccia con il gomito, l'arbitro ha dato fallo e ci poteva stare ammonizione, e secondo me no. Ma comunque, Enrico Curro, ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao. Voglio farti sentire, cosa che tu hai già fatto, una voce, che è quella di Berlusconi, ieri dopo la sua visita a Milanello. Ho cercato di portare il ricordo di quello che è stato il grande Milan, e che è ancora, come la squadra che ha vinto più tornei e trofei internazionali nel mondo. E quindi io naturalmente immagino sostenuti, io spero di avere fatto un inizio di lavoro per farli sentire da Milan, e perciò spero che qualche effetto, se riuscirò ad avere tempo per tornare spesso come facevo nei primi 10 anni di mia presidenza, qualche effetto positivo si potrà anche avere. Questo era Berlusconi di ieri, ma sentiamo insieme anche Galliani di oggi, che fa un annuncio. Adesso si può parlare, sì, noi adesso si può parlare, il contratto era stato depositato, l'avevamo segretato, oggi lo togliamo il segreto, quindi adesso si può dire onda dal 3 di gennaio sarà un giocatore del Milan. Maglia numero 10, faceva parte del pacchetto. Quindi avete sentito Berlusconi, gli ho fatti sentire da Milan, e poi Berlusconi se n'è andato ieri per la cronaca. In serata si è presentato a Milanello Galliani, dunque due delegazioni separate, i Berlusconi e Galliani poi, e Galliani ha già annunciato l'arrivo ufficiale di Honda, giocherà con la maglia numero 10. Giorno importante questo per il Milan, Enrico. Sì, giorno importante, però alla fine è da 2 mesi che continuiamo a dire che ci sono giorni importanti per il Milan, ognuno più importante dell'altro, ognuno più drammatico dell'altro. Io direi che prima di tutto bisogna aspettare la partita di stasera, che è teoricamente una partita non difficilissima per il Milan, perché gli basta un pareggio per entrare negli ottavi, e poi da domani si potranno iniziare a fare altri tipi di discorsi sul futuro. Però anche qui, milanisti, siamo per radio, fate quello che volete con le mani, eccetera eccetera. Dovesse andare non bene per il Milan questa sera, allora potrebbe essere invece la notte in cui salta Allegri? Ma tutto è possibile, però io faccio una considerazione: se finora non è successo niente e ci sono stati molte volte nel corso di questa stagione e anche in quella precedente i presupposti per le abitudini del calcio italiano per mandar via l'allenatore, e non è successo, vuol dire che ci sono elementi che prescindono da valutazioni di carattere tecnico, cioè elementi economici, che hanno suggerito finora di mantenere Allegri al suo posto, e quindi credo che se non succedono veramente cataclismi, Allegri continuerà a essere l'allenatore del Milan. Ma a questo punto sarebbe praticamente senza obiettivi, se vogliamo escludere l'Europa League dagli obiettivi, cioè sarebbe fuori dalla Champions, risultato minimo richiesto, e sarebbe, è fuori dal campionato praticamente dal pronti via. Sì, però sai, il Milan di fatto, al di là delle finzioni o di quello che bisogna dire, che il gioco delle parti forse impone un pochino di dire, in realtà gli obiettivi alti non li ha avuti dall'inizio, perché soltanto delle visioni abbastanza ottimistiche, per usare un eufemismo, potevano far pensare che il Milan fosse da scudetto e che potesse arrivare chissà dove in Coppa, in Champions League. Quindi alla fine direi che vale più di tutto quella frase che hai mandato in onda di Berlusconi, in cui lui dice, parla di ricordo, sì, degli è scappata questa, sì, parola, ricordo del grande Milan che è stato, e poi ha aggiunto che ancora, giusto perché secondo me lo doveva dire, certo. E poi ha anche aggiunto: spero di avere trasmesso a questi giocatori l'esigenza, insomma, di essere da Milan, il che, traducendolo, vuol dire che anche secondo lui, che è un grande venditore di sogni, il Milan attuale non è all'altezza del grande Milan, l'avevamo capito tutti, però sentirlo dire in maniera così esplicita, sì, dalla persona che forse di solito queste cose le dice meno volentieri, è abbastanza emblematico. Sì, normalmente lui dice siamo in corsa per la Champions, domani battiamo l'Ajax e poi vogliamo verso la finale. I suoi pensieri normalmente sono questi. Hai trovato qualche cambiamento in Balotelli tu? Reale? Al di là del gol ritrovato, al di là di uno stato di forma migliore? Sai Carlo, io la scorsa settimana ero in Brasile. Non ho visto le partite perché ero in Brasile per il sorteggio, mi sono quindi mi adeguo a quello che ho letto e a quello che ho comunque poi visto nelle immagini. Con Balotelli è meglio non rischiare mai un pronostico o una valutazione di questo tipo, perché immediatamente viene smentita nel bene e nel male. Io credo che la frase significativa di ieri sia quella di Allegri quando ha detto Balotelli ha capito di avere delle responsabilità. Credo che questo poi sia l'elemento centrale, sì, in un giocatore del talento di Balotelli. Sì. Se lui capisce di avere delle responsabilità in questa squadra e anche in nazionale, probabilmente è una cosa buona. Poi bisogna però che al senso di responsabilità che avverte faccia seguire anche delle partite in cui dimostra di avere capito tutto, perché dal punto di vista tecnico che se ne dica, ho sentito nel periodo buio di Balotelli delle considerazioni secondo me molto semplicistiche sul giocatore, sì, che ne smorzavano ne attenuavano la qualità. Sì, certo. Balotelli è un campione, e se era un campione è un campione quando segna, non è che improvvisamente tutti i grandi campioni compreso Van Basten, faccio per dire, tutti i grandi campioni hanno attraversato, senza fare paragoni, hanno attraversato dei momenti in cui non strusciavano pallone o il gol non lo trovavano mai. Un'ultima cosa, Enrico, in un minuto. Tu eri in Brasile per il sorteggio, sta facendo il giro del mondo, oltre 7 milioni di contatti, un filmato in cui si vede Jerome Valque, segretario generale, quello che ha materialmente estratto i bigliettini dalle palline, dalle urne, che ogni volta che prende una pallina abbassa le mani sotto il tavolo e poi, dopo aver armeggiato un po', alza il bigliettino, ogni volta. E questo ha destato e sta destando nei tanti maliziosi qualche dubbio. Hanno ragione? Possono aver ragione? Hai qualche dubbio anche tu? Ma possono aver ragione, sì, perché il sorteggio del campionato del mondo, da che mondo è mondo, scusate il gioco di parole, ha sempre suscitato delle perplessità, in questo caso ancora di più, visto quello che è successo, le invenzioni che hanno fatto per salvare la Francia. Quindi sicuramente è un sorteggio molto sospetto, sicuramente il fatto per esempio che l'Argentina abbia avuto più o meno il girone che voleva, che le sudamericane siano state grosso modo quelle importanti, tutte abbastanza accontentate, lascia pensare che qualcosa di strano ci sia. Di sicuro, se una considerazione va fatta, è quella che non c'è nessun rispetto per la nazionale italiana, non c'è stato, vincitrice comunque di 4 titoli mondiali per 2 anni e passa tra le prime 7 nel ranking, è uscita giusto soltanto nel momento fatale. Diciamo che o non ci hanno rispettato o non ci siamo fatti rispettare, comunque il dato o gli stiamo fatto, proprio sulle palle, insomma. Probabilmente sì, perché probabilmente c'erano 13 non teste di serie. Dove, e noi siamo stati trattati come la 13ª alle spalle della Bosnia. Insomma, non è qualche non dubbio, qualche dubbio ti viene per i vicecampioni d'Europa. Enrico, ti ringrazio, grazie davvero, un abbraccio. Allora, 68-49 di gioco, Galatasaray 0, Juventus 0. Dopo un paio di brevi, la Juventus ha ripreso un po' l'inerzia di questa partita. Ci sentiamo dopo. Oh, the weather outside is frightful. Llorente esce Muslera, che poi recupera il pallone che aveva per un attimo perso. E qui bravo Muslera, fa bene un po' ad arrabbiarsi con Llorente, perché ha messo il piede, anche se la palla era già tra le braccia del portiere, mentre rivediamo questa grande azione Tevez molto bravo con questo tacco, poi bravo Marchisio di prima, però Muslera era piazzato perfetto in mezzo alla porta. Eh sì, un sinistro in diagonale di Marchisio parato, bloccato a terra da Muslera. Il Gala ci prova ora da lontanissimo, ma con Burak, ma la palla finisce praticamente in fallo laterale. Beh, devo dirvi, 79-49 secondi in questo momento, mentre c'è un cambio per il Galatasaray, esce Eboué, 0-0, uno 0-0 che, ripeto, qualificherebbe la signora al turno successivo. Ma meritatamente, vista questa pseudo partita giocata in due giorni in condizioni ambientali, nelle condizioni ambientali che conoscete, e se non avete visto il campo, queste condizioni ambientali surreali sono completate dal campo di oggi, che è veramente qualcosa di incomprensibile a questi livelli. Comunque la Juventus fin qui certamente regina della palude, con Llorente molto bravo anche oggi con il suo fisicaccio a tenere su tanti palloni, a far salire la squadra. 80esimo 0-0 e 10 più recupero alla fine di questa specie di partita. Seguiamo questa punizione dentro per la Juventus con lo scatto di Tevez, che però sulla palla non arriva. Digiuno di Tevez, astinenza dal gol di Tevez in Europa, che dura, lo sapete bene, da 4 anni e mezzo. C'è una dichiarazione di Totti, prima abbiamo parlato a proposito di una sua presunta possibilità di partecipare ai mondiali, di questa porta aperta da Prandelli. Io ho pensato che, però, tutte le volte che parlo di mondiali mi vengono in mente quelle manine di cui parlavo prima con Enrico Gurrò, perché vi invito a vedere quel filmato, è davvero su YouTube, e l'hanno visto in 7 milioni, ripeto, numero destinato a crescere ulteriormente. Mi vengono in mente quelle manine di Jerome Valke che si infilano sotto il podio, lo schermo del podio, armeggia con quella pallina e poi dopo un po' fa vedere un bigliettino. Ma 81-51 0-0 tra Galatasaray e Juventus. Ebbene, Totti che ha detto: ho ancora tanti anni per vestire questa maglia. Con queste parole ha suggellato un nuovo rapporto che legherà lui la Roma e lo sponsor tecnico, la Nike, nell'evento organizzato dal marchio del baffo. Dunque vuole giocare ancora a lungo, quanto non si sa, probabilmente fino agli anni, fino a quando ne avrà 50. Attenzione alla Juventus, il tiro dal limite rimpallato, ma è una Juventus che continua a tenere il Galatasaray lontanissimo dalla sua porta, ed è questo l'obiettivo. Adesso è calcio d'angolo e va a battere Tevez. Allora, stasera gioca il Napoli, partita incrocio e insomma possibilità ridotte secondo me per la squadra di Benitez. Benitez che ha raccontato ieri in conferenza stampa una parabola. Tanti stanno dicendo a Benitez perché non si passa al 4-3-3, dicendo che questa potrebbe essere la soluzione di qualche problema del Napoli. Quindi io ti invito a spiegare bene perché non fai questa cosa. Provo a spiegarlo in italiano, che non è facile. Sì. Credo che l'ho fatto una volta, ma lo dico un'altra volta. Un papà che camminava con il suo figlio, con un asino, e da fronte trova un giornalista e dice: guarda queste due che camminano, hanno un asino, perché non va uno sopra l'asino e così si fatica meno? E il papà che lo sente dice: va bene, io vado sopra l'asino. E un altro giornalista dice: guarda, questo è papà che va nell'asino, il suo figlio cammina, poverino. E il papà dice: è vero, il mio figlio ha l'asino e io cammino. E un altro che arriva dice: questo bambino giovane, il suo papà camminando, che cosa facciamo? Gli dice il papà: è vero, andiamo tutti e due nell'asino. E un altro che arriva dice: guarda, queste due povero asino che tutte e due, perché non camminano? Che facciamo alla fine? Lo che noi sappiamo che dobbiamo fare, che è lo che guardiamo ogni allenamento, la squadra, lo che abbiamo, e alla fine decidiamo noi, perché abbiamo fiducia noi stessi. Nell'asino dunque, perché abbiamo fiducia nel ciuccio. 800240024, il vostro numero verde. Gli altri numeri sono 84 e 18, 0-0 tra Galatasaray e Juventus. c'è stato un sinistraccio di Snyder e fosse stato rugby avremmo gridato meta, trasformazione, tiro altissimo sulla traversa di Buffon. Oh, ma ci sono anche altre, attenzione, vantaggio con Snyder del Galatasaray, adesso è durissima. Lì si è messo davanti, però la palla credo sia dove passata. Sono i buffi? Dove siete? E quando il dove tiro siete va in mezzo appollaiati? Per il portiere diventa impossibile perché la palla è andata 86esimo, lancio lungo da metà campo. Drogba che spizza la palla di testa, Snyder allargato sulla destra, che con il destro, quindi non esattamente sul piede, riesce a trovare questa carezza di interno destro in diagonale sulla quale Buffon non arriva. E beh, adesso è durissima, sì ragazzi, ma lasciatemi dire, al di là di tutto quello che si potrà dire e che vorrete dire, 800240024 su questa specie di partita, su questo confronto su due giorni, sulla neve. Adesso la neve potrà essere un buon appiglio questa situazione potrà essere un buon appiglio per chi uscirà dalla Champions League. Insomma, nel complesso secondo me la Juventus non merita assolutamente di uscire sconfitta da questa specie di partita, anche e soprattutto perché oggi ha insomma, tenuto per le corna il Galatasaray fino a questo lampo veramente nel buio di Wesley Snyder. Galatasaray che raramente ha superato la metà campo, e Juventus che non si può dire abbia costruito moltissimo, ma ha certamente tenuto in pugno la partita. Adesso c'è un cambio, esce Marchisio, entra Quagliarella, minuti 86 e 36. 800240024, voglio sentire qualche gufo, se c'è. Non so se c'è, ma se c'è lo sentiamo. Intanto vi faccio sentire un'altra cosa abbastanza clamorosa. Allora, ieri sera Bayern Monaco Manchester City. Bayern Monaco Manchester City, vince il City 3-2 e passa il turno come seconda. Ma c'è Pellegrini, allenatore del City, che si addormenta in panchina, non si accorge che vincendo 4-2 avrebbe passato il turno, sì, ma come prima del girone, cosa che fa tutta la differenza del mondo, e si è tenuto seduto vicino a lui Agüero, perché tanto non serviva. Non serviva? Ma forse era il caso di provare a fare quel gol del 4-2. You're 3-2 up, you've got quite a bit of time to get this goal that would have topped the group. Were you not tempted to put on Agüero, your best striker? I was tempted. If we scored the fourth goal, of course, that's why I send Agüero to warm up. But also, I think that it was a risk to continue with Silva. He can't play more than 7 minutes today. I repeat, for our team, it's very important to be the first of the group, but not the most important thing. It was difficult to score two goals, and I think that Silva has to be out, not to play more than 70 minutes. Insomma, non se n'era accorto, si è tenuto Agüero in panchina, si è accontentato di vincere 3-2 e di arrivare secondo nel girone. Fosse stato Mourinho, avrebbe messo dentro anche gli attaccanti della primavera. C'è una punizione per la Juventus da posizione estremamente interessante, dai 25 metri posizione centrale rispetto alla porta di Muslera. Ci vorrà un'oretta per battere questa punizione, ovviamente, perché i turchi fanno melina sulla distanza, sulla posizione della palla, sul ciuffo di erba, sulla zolla di fango in cui Tevez sta andando ad appoggiare il pallone. Sentiamolo. Tevez che non segna da oltre 4 anni in Champions, da 20 partite, ha fatto una grande gara oggi, gli manca solo il gol. Fischi assordanti del pubblico. A Samoa liberissimo sulla sinistra, qui non sarebbe male. Rincorsa breve per Tevez. Parte Tevez, c'è la deviazione della barriera, a Samoa il cross deviato, ancora Tevez, Juve che insiste. Fernando Juve che insiste, ma Galatasaray che vince quando siamo a 45 secondi dal novantesimo, quindi manca il recupero. Galatasaray che ora va in azione di contropiede, attenzione perché è una palla pericolosa che però Asamoah riesce a recuperare e neutralizzare, ma la Juve è sotto di un gol e quindi ha un recupero che non so di quanto possa essere in questa situazione così, così difficile, ripeto, così surreale. Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono, ma anche quello che sta facendo la Juventus. I gufi dagli Juventini, la finale d'Europa League quest'anno a Torino, dai Juventini, la finale d'Europa League quest'anno a Torino. Vabbè, i gufi comunque sono molti, arrivano in massa via SMS. Dove sono i gufi? Qui, Paolo da Torino, oppure dai, dai, forza Mancini, Wes, grazie da Roberto Interista, Aleo e baci e abbracci. Vabbè, entra Giovinco, ma la situazione è davvero molto difficile. Vabbè, io sono un po' scosso, non me l'aspettavo questo gol a freddo di Sneijder. Mi dispiace molto che la Juventus stia per uscire dalla Champions League perché non lo merita, non lo so, non lo merita, possiamo parlarne. Con 6 punti in classifica in questo girone, avendo subito 9 gol, perdendo la partita che doveva essere della vita, probabilmente se lo merita, sì, se esce se lo merita. 3 minuti di recupero concessi, 1 se n'è quasi andato. Teniamo la linea fino alla fine o dobbiamo chiudere? Ditemelo voi. Vado avanti, quindi abbiamo ancora un paio di minuti prima di passare la palla, la linea, e magari di rilassarci un po' con Giorgio Telesforo. Claudio, provincia di Modena, lei è un gufo? Ah, sì, sono un gufo, ma lei è un gufo perché l'aveva appena chiamata. Cosa ho chiamato? Ha preso in giro Sneijder che aveva fatto meta, non lo so, mi spiace. Non posso fare altro che ringraziarla. Mi ringrazia, no? Perché fa così? No, ma in effetti Sneijder aveva provato a fare un tiro che non aveva alcun senso ed è stato uno dei migliori tiri fatti dal Galatasaray. Non so se sta vedendo. No, ma lo conosco Sneijder. No, conosco anch'io Sneijder, per carità. Dico, il Galatasaray, quel tiro altissimo è stato una delle azioni più pericolose che ha fatto nel corso della doppia partita. Perché togliamo quel tiro di Drogba parato da Buffon, che è stata l'unica vera occasione del Galatasaray. Per il resto io sinceramente, una squadra che peraltro doveva provare a vincere, me l'aspettavo quantomeno proprio aggressiva, però adesso sono tutte chiacchiere che stanno a zero perché la Juventus è a 50 secondi dall'eliminazione. Ovviamente adesso Mancini provvede ad un cambio, Sneijder, ombre del partito, esce dal campo per una sostituzione chiaramente dettata dalla necessità di perdere tempo. Insomma, proveremo a consolarci questa sera con le altre due. Pronostico mio, un disastro. Ho detto vince la Juventus e qui lo ammetto. Mi tengo ancora al pareggio il pareggio del Milan, ho detto, pareggio del Milan e il pareggio con gol del Napoli. Spero di sbagliarmi per quanto riguarda il Napoli, sarebbe un modo per tirarci su il morale dopo questa beffa, perché secondo me di ciò si tratta. Galatasaray 1 Juventus 0, il terzo minuto di recupero è finito in questo momento, con Drogba che porta la palla vicino alla bandierina del calcio d'angolo, chiaramente per perdere tempo, invece salta due avversari, arriva sulla linea di fondo, mette in mezzo un pallone meraviglioso che la difesa della Juventus libera. Siamo 18-19 secondi oltre il terzo minuto di recupero. Ora Giovinco prova ad andare in cronaca. Asamoah sulla destra viene fermato da un giocatore del Galatasaray, rimessa laterale all'altezza di centrocampo per la Juventus. Abbiamo provato anche a chiamare Antonio Conte, che però non, in questo momento non risponde, ma ve lo facciamo sentire domani. Agghiacciante quello che dicono! È agghiacciante quello che dicono, sentiremo poi cosa dovrai dire tu. Ma la Juve meritava di più. La Juve certamente meritava di più. Sono d'accordo, la Juve meritava di più e invece perde 1-0 a Istanbul con il Galatasaray, gol di Sneijder all'85esimo e dunque esce dalla Champions League. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, tutti convocati domani pomeriggio alle 2:00.